Almanya'da doğan ve daha sonra Reggio Emilia'ya taşınan bir ailenin çocuğu olan Caposella, 1990 yılında çıkardığı ilk albümü Alluna 35 Circa ile müzik dünyasına girişini yapmış oluyor. Ardından benim en sevdiğim albümü olan Modi, yani Amedeo Modigliani'ye ithafen yapılmış bir albümle Jean Hepburn'un hayatını anlattığı, onun gözünden, bir kadının gözünden Modigliani'yi anlattığı bir parçayla Vinicio Caposella şimdi Itabella'da. Si adagia la sera sui tetti e lampioni e sui vetri appannati dei bar. Il freddo ci mangia la mente, le mani e il colore dell'ambra dov'è. Ripensa alla luce e al sole d'Italia che Dante d'autunno cantò. Che io sto vicino a te e tu sai perché stai vicino a me. Questa notte, domani se puoi, ricordi via Roma, la luna rideva, lì ti ho scelto e voluto per me. Mi guardavi e parlavi dei volti tuoi strani, degli occhi a cui hai tolto l'età. E ora si scioglie la sera nei pernoni, nei caffè e nei ricordi che abbiamo di noi. Per amore tradivi, per esistere morivi, per trovarmi fuggivi fin qua. Perché Livorno da gloria soltanto all'esilio e morti la celebrità. Ma io sto vicino a te, in silenzio accanto a te. Stai vicino a me. Questa notte, domani, se puoi. Questa notte altre notti verranno, anche se non sentiremo ancora cantare. Ascolteremo la pioggia bagnarci i colori e mischiare i miei pensieri nei tuoi. Ormai l'alba, ho paura di stare, restare da sola, scordarmi noi. E allora sto vicino a te, anche se non vedi che io sono qui vicino a te. Questa notte, domani sarò. Modi Radyonuz'daydı.

Çok güzel bir parça. Umarım siz de keyif alırsınız. Non è l'amore che va via, şimdi radyonuzda. Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te, lo so, lo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, il gusto amaro del mattino. Ma non è l'amore che va via, il tempo sì, ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto da uccello di te, soltanto un sonno di qui te domani. Conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Lo so, lo sai, immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione, un'inquietudine sottile. Ma non è l'amore che va via, il tempo sì, ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto da uccello di te, soltanto un sonno di quiete domani. Non è l'amore che va via ile Vino Capasso ile radyonuzdaydı. Şimdi bir önceki albüme geri dönüyoruz. Ve yine biraz kırgın bir aşk şarkısıyla devam ediyoruz. Bu bir Yunan atasözünden çıkmış bir şarkıymış. Bu sözlerde her şeyi, sevgiyi, acıyı alıp götüren yağmurdan bahsediyor. Uzaklaş, her şey geçer, her şey akar, her şey kayar gider diyor. Yaşı olmayan rüzgar, yağmur damlalarının arasında camlarda kaybolan sevgili kadınımın görüntüsünü alıp gider dediği bir parçayla, bir Capossola klasiğidir bu parça. Scivola vai via, şimdi radyonuzda. Sentite, il vento soffia la sua immagine nel vetro dietro il bar. Gocce di pioggia, bufere d'amore, ogni cosa passa e lascia. Scivola, scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me. Scivola, scivola, vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me. Canzoni e poesie, pugnali e parole, i tuoi ricordi sono vecchi ormai, e i sogni di notte che chiedono amore cadono al mattino senza te. Cammina da solo, urlando i lampioni, non resta che cantare ancora. Scivola, scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola vai via, via da me. Scivola, scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola vai via, via da me. Scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola vai via, via da me. Scivola, scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola vai via, via da me. Scivola vai via ile Capossola radyonuzdaydı. Az evvel dinlediğimiz parça bir Yunan atasözünden geldi demiştim. Bu vesileyle 2012 yılında yayınladığı Rebetiko Gymnastas albümünden bir parça dinleyeceğiz şimdi. Bu albüm pek iyi eleştiriler almamasına rağmen benim çok sevdiğim bir Capossola albümü aslında. Şimdi Contrada Chiavicone ama Rebetiko versiyonuyla radyonuzda. Come un stacchi sul mastello del marmo. Oggi in rotta mi robi vecchi del catrame. Passa già come col carro del cartone. Stravecchi sui sedaio di dialetto e chiavicone. Ti guardano di sotto chi mentre tirano il bastone. Abbaiano tra i tubi incanagliati nel bidone. Camminata una guercia alla catena. Squasciano le onde di lamiera chiavicone. Ronzano i muscoli sotto il manto del tendone. Retti senza le tane tremute sotto il petto. Mentre il vento non lo smette di soffiare. Mamma mia, mamma mia, se smarrita la via. Pensa a me, pensa a me, qui perduto per via. Solo chi cade fra la vista edificante di rialzare il capo dal fondale sottostante. Solo chi cade fra la vista edificante di rialzare il capo dal fondale sottostante. Sorge rapido in rispetto al chiavicone. Lascia dietro in una steppa una ventata di sabbione. Si trova alla dozzina alla stazione di benzina. Quei ragazzi di contrada chiavicone. Sulla torre da cui dopo salza il fumo del fogone. Su scuro il cielo sotto il velo nero di carbone. Bruciano gli sterpero, bruciano gli scarti. Qui facciamo pulizia della ragione. Bruciano i ricordi del passato a chiavicone. Nello nel matto soffia per di fiato nel trombone. Odorano di resine di anima che crepita gli ultimi giorni dell'umanità. Mamma mia, mamma mia, se smarrita la via. Pensa a me, pensa a me, qui perduto per via. Solo chi cade fra la vista edificante di rialzare il capo dal fondale sottostante. Solo chi cade fra la vista edificante di rialzare il capo dal fondale sottostante. Smarrita la via, pensa a me, pensa a me, qui perduto per via. Solo chi cade fra la vista edificante di rialzare il capo dal fondale sottostante. Solo chi cade fra la vista edificante di rialzare il capo dal fondale sottostante. Contrada Chiavicone ile Kapasele radyonuzdaydı. Bir Adriana Celentano yeniden yorumlamasının da yer aldı. L'Indispensabile'yi 2003 yılında yayınlıyor. Şimdi bu albümden en bilinen parçayla Si es spenta il sole ile Capocella radyonuzda. Si è spento il sole nel mio cuore. Sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Da qualcun altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. finita d'amore. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Amare un'altra non potrò. Amare un'altra non potrò. Capacela, Si è spento il sole ile radyonuzdaydı. Bugün Itabella'da iki müzisyen var demiştim. Capacela'yı dinledik. Şimdi 1979 Roma doğumlu Alessandro Mannarino ve tanınan ismiyle Mannarino bizlerle olacak. Mannarino Roma doğumlu, 2001'de müzik hayatına başlıyor. Monti semtindeki işte DJ aktiviteleri olsun, bazı şovlarda yer alıyor. Akustik konserlerden sonra kendi profesyonel kariyeri albümleriyle devam ediyor. 2014 yılında çok mecazi bir dağ çıkışı yolculuğunu, öyle tanımlanan El Monte yayınlanıyor. Ölçülü ve bilinçli bir şekilde, öfkeden değil zihinden ilham alan, bu şekilde yazdığını söylediği, görüntülerde kelimelerden geçen tasvirleri anlattığını söylediği bir albüm bu. Bu albümdeki insanı bir hendeye doğru iten bir tanrıyla başlayan ve daha sonra parça ilerledikçe bu metaforları derinleştiren ve çok ses getiren bir Mannarino parçasıyla devam ediyoruz şimdi. Deixa-la, Mannarino, Shimdi, Radio Nusta. Come un sadico l'istinto per chiuderci qui dentro ad un recinto. Il secondo Dio, l'architetto del teatro, usava il cielo come un gran fossato. Era solo un altro carceriere che giocava con le mosche in un bicchiere. Odessa, vieni a vivere in città, e c'è già chi ride di lacrime. Odessa, mi profuma l'anima. Guarda qua, c'è un marmocchio che inciampica. Che delusione, per il quarto si bruciarono le donne e restammo solo maschi sulla terra con un unico passatempo, la guerra, per il quinto contro il sesto. Ma il settimo Dio è apparso alle baracche stamattina e c'è speranza nuova fra la gente. Stavolta è quello giusto veramente. Si sa ancora poco, ma il nome suona bene e non vuol dire niente. Odessa, viene a vivere in città e c'è già chi ride di lacrime. Odessa mi profuma l'anima. Guarda qua, c'è un marmocchio che scalpita. Şöyle, Mannerina Radyonuz'daydı. Şimdi hayatı yaşamak gerçekten büyük bir iştir. Beşik ve çukur arasında bütün bir dünya vardır. Sen küçük bir limandan başladın diyen, neyi başarmak istediğini vurgulayan, yani yaşamın anlamını ve herkesin onun aşırı ihtişamını anlamasını sağlamak isteyen bir parça olan Vivere la Vita, Hayatı Yaşamak, şimdi radyonuzda. Quella notte un orizzonte. Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe e sarai l'uomo più forte del mondo. Lei si truccava forte per nascondere un dolore. Lui si infilava le dita in gola per vedere se veramente aveva un cuore. Poi quello che non aveva fatto la società l'ha fatto l'amore. Guardali adesso come camminano leggeri senza un cognome. Puoi cambiare scarpe. Se hai scarpe nuove puoi cambiare strada. E cambiando strada puoi cambiare idee. E con le idee puoi cambiare il mondo. Ma il mondo non cambia spesso. Allora la tua vera rivoluzione sarà cambiare te stesso. Eccoti sulla tua barchetta di giornale che sfidi le onde della radiotelevisione. Eccoti lungo la statale che dai un bel pugno a uno sluttatore. Eccoti nel tuo monolocale che scrive una canzone. Eccoti in guerra nel deserto che stai per disertare. E ora eccoti sul letto che non ti vuoi più alzare. E ti lamenti dei governi e della crisi generale. Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa. Sorridi, respira forte, sei vivo, cretino. Vera La Vita ile Mannarino radyonuzdaydı. Şimdi Romalı şarkıcı ve söz yazarının bir single çalışması olan oldukça Mannariana bir parça bizimle olacak. Gli Animali yine bir metaforun metaforun üstünden insan ırkının parlak ve tartışmalı varoluşunu sorguluyor ve diyor ki hayvanlar bize benziyor mu yoksa onlara benzeyen biz miyiz? Bu yemek yemek, koku almak, birbirini kovalamak, kendini parçalamak telaşında varlığını kurtarmanın bir yolu var mı? Bu soruyu sorarken sizi Alessandro'nun oldukça maskülen sesiyle baş başa bırakıyorum. Gli Animali şimdi radyonuzda. Sottomette non solo per denaro, il somaro va avanti e indietro, da casa al cimitero, lo psico pipistrello evita la luce, il mulo porta il padre e non si riproduce, il coccodrillo in cerca sempre di una preda, la preda fa di tutto perché lui la veda, i serpenti sono tanti, quasi quanto i santi, cambiano i vestiti, sono sporchi dentro, fuori eleganti. Stai attenta. Oh, governi, ma non cambiano gli schiavi. Urla l'agnellino ai poliziotti cani. La scimmia porporina ha messo sul kimono, dice può parlare col supremo tuono. E nella foresta han costruito un grande duomo, dove gli animali veneranno l'uomo. I pesci del mare giran per il mondo, saltano al sole e vanno nel profondo. Delle stelle da quella delle lampare. Ali Radyonuzdaydı. Şimdi çok daha rahat, yani daha önceki gibi toplumsal sorunları ya da hayata dair sorgulamaları içermeyen şarap metaforu üstünden bir sarhoşluğu ve bir kadına duyulan sevgiyi anlatan bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Mannarino me sombriacato ile şimdi radyonuzda. Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te.

Arka di Noe radyonuzdaydı. Bu hafta Itabella'da iki tane şapkalı, bıyıklı, sakallı müzisyen vardı. Minuto Capestella ve Mannarino radyonuzdaydı. Şimdi Mannarino ile kapatıyoruz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Mannarino'dan 2009 yılındaki Berdella Rabbia albümünden çok hareketli bir yaz şarkısıyla kapatıyoruz. Devere Grand Hotel şimdi radyonuzda. Hoşça kalın. Comprano oro e rubano amor, comprano oro e rubano amor. All'ora della sera, che al campo, chi in galera, l'ombra nera, un nodo in gola. Regina della campina, quanto costa la rapina, l'amore. Selvaggio fra le cosce del mondo, vaga vagabondo, venga l'amore, oh la rovina che nel vento va, sogna sogna per me. Della campina, quanto è lunga casilina, andar persi nel vento, fra le fiamme del mondo, spinti verso il fondo, venga l'amore, oh la rovina che nel vento. Hotel.